Europa 24. Saluto da Gigi Donelli, ritorniamo a parlare brevemente di quello che accade questa mattina a Johannesburg nello stadio del soccer, per citare una frase che è stata appunto pronunciata dal presidente del Consiglio Letta. Letta dice: venendo qui si capisce che o l'Europa si unisce o l'Europa non conta niente. È un'impressione che da qui oggi rimando a casa in Europa, un'impressione sulla quale dobbiamo assolutamente riflettere. Così Enrico Letta allo stadio appunto di Johannesburg. Intanto un programma da 1,4 miliardi di euro per diffondere film, opere letterarie e prodotti multimediali, 170 milioni già disponibili nel 2014, una crescita reale di budget del 9% per il settore culturale. È il progetto Europa Creativa, approvato pochi giorni fa, il servizio di Marta Cagnola. La cultura, non solo ricchezza interiore, ma motore di sviluppo industriale, della crescita e della competitività. Per aiutare l'Europa che produce cultura è stato dato il via libera al progetto Europa Creativa. Tra gli europarlamentari che hanno fortemente sostenuto questo progetto, il relatore Silvia Costa. Praticamente si tratta di una, come si sa, di un programma direttamente gestito dalla Commissione, quindi non risorse affidate agli Stati membri, ma direttamente gestito. Penso che già il 10 o l'11 dicembre partiranno i primi bandi, a cui possono partecipare progetti che abbiano un valore aggiunto europeo, quindi con molta, diciamo, forza dal punto di vista del valore della transnazionalità, che saranno, se vincitori, otterranno un cofinanziamento che può andare dal 50% all'80%, ma la cosa interessante è che a questo cofinanziamento si aggiunge per la prima volta anche la possibilità, che partirà dal 2015, di un fondo di garanzia europeo che assisterà le istituzioni finanziarie nazionali che faranno prestiti a queste imprese, che sono piccole, piccolissime, a volte micro, ma anche a organizzazioni no profit. Industria culturale significa anche occupazione. Adesso si calcola che le imprese culturali creative in senso ampio nel 2011 rappresentassero il quasi il 7% del PIL europeo, con un crescente anche numero di addetti, anche perché tutta la sfida ormai del digitale, della rete, chiaramente aumenta anche le potenzialità di questo campo, ma soprattutto di oltre 1 milione di imprese, di circa 6-7 milioni, qualcuno dice addirittura 8, dipende un po' dal perimetro, di operatori, e spesso si tratta di persone giovani, culturalmente attrezzate o anche di professionalità che meritano comunque di essere ulteriormente formate. Infatti una delle azioni che farà la Patriativa è di sostenere opportunità di formazione soprattutto per giovani talenti, per artisti, ma anche per operatori professionisti, anche di circolazione, di mobilità europea, al fine di acquisire anche skills e competenze più forti. E infine una notizia che riguarda le pensioni. Primo via libera dall'Europarlamento all'accordo raggiunto la scorsa settimana con il Consiglio sulla portabilità delle pensioni per i lavoratori, che potranno spostarsi da un paese UE all'altro mantenendo i diritti pensionistici integrativi. La Commissione Affari Sociali dell'Aula ha approvato l'intesa che, su sua insistenza, include anche i lavoratori transfrontalieri, quasi all'unanimità, con 39 voti a favore, nessun voto contrario, 2 astensioni. Il dossier passa dunque in febbraio in plenaria per l'approvazione definitiva, dopodiché gli Stati membri avranno 4 anni di tempo per adeguarsi alle nuove regole. Con questo è tutto, la linea a Carlo Genta, naturalmente all'appuntamento con lo sport. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.